Siamo con la critica d'arte Monica De Mattè per parlare del film Il sogno di Mo di Francesco Dal Bosco che sarà in programmazione al Cineclub de Tours domenica 13 maggio. Monica, benvenuta. Grazie, grazie a tutti. Dunque, Lo raccontiamo brevemente il film? il film diciamo che cerca di ripercorrere, ricostruire questi 30, ormai 31 anni, quasi 32 anni che io ho trascorso in gran parte anche in Cina, seguendo un mio sogno, diciamo, una mia intuizione che è nata dallo scoprire l'importanza del vuoto nella pittura cinese tradizionale. Poi è continuata con un mio primo viaggio lì nel 1986 e con invece il fatto che mi sono confrontata con una realtà che era totalmente diversa da quella che io immaginavo e quindi con avere a che fare con gli artisti che allora cominciavano ad essere indipendenti, diciamo poi con tutto quello che è successo da allora ad adesso, che è successo veramente molto in Cina negli ultimi 30 anni, ecco, quindi da un'arte, diciamo, che non esisteva in termini appunto di indipendenza dalle istituzioni, ha invece alla realtà odierna che poi si è formata attraverso anche l'esistenza del mercato, il confronto con l'esterno, l'internazionalizzazione, eccetera, insomma, ecco, quindi diciamo che e poi c'è anche insomma, ci sono dentro alcuni ovviamente brandelli di vita mia, sempre in rapporto con queste questioni qua, insomma. In questi 30 anni è cambiato molto. Come hai vissuto questo trentennio? È stato molto bello, è stato anche molto difficile perché all'inizio diciamo che ho avuto veramente un ruolo abbastanza da pioniera perché all'epoca l'arte appunto di un certo tipo non si conosceva in Cina, ecco, non era esposta in pubblico, era esposta in alcuni luoghi che erano o all'interno dell'università, delle accademie oppure in luoghi anche piuttosto clandestini, e quindi si è passato da quella situazione, diciamo, che era molto interessante, anche a volte critica, a invece poi un passaggio veloce, improvviso, all'aspetto anche commerciale, che io personalmente devo dire, l'ho vissuto in maniera forse con più difficoltà, ecco, perché c'è stato è stato troppo repentino, non è stato maturato, non è stato digerito, per cui ha portato con sé molti problemi. E io ho cercato comunque di starne un po' fuori, perché vedevo che stava un po' fagocitando tutto, ecco, quindi ho cercato sempre di ritagliarmi uno spazio al di fuori da quel jet set dell'arte contemporanea in cui avrei potuto stare, ma che non, a un certo punto mi sono resa conto che non era esattamente quello che volevo, insomma. A livello popolare c'è una fruizione diffusa dell'arte? No, a livello popolare la fruizione diffusa non è, direi, dell'arte contemporanea, ma è più dell'arte ancora tradizionale, quindi l'arte. Diciamo la pittura inchiostro e pennello, magari con contenuti di fiori oppure di paesaggi, oppure la calligrafia, ecco, oppure dei quadri a olio piuttosto figurativi, insomma, quelli che si vedono un po' anche da noi, e quelle sono cose che vengono fruite a livello abbastanza popolare, ecco, le altre cose non direi proprio, perché in Cina c'è comunque diciamo che c'è un divario molto grosso fra, anche se sembra assurdo, però le classi sociali esistono anche più che da noi, quindi sì, no, non parlerei di popolare, ecco, non parlerei di funzione popolare. Monica, hai considerato questo lungo percorso esprime oggi la Cina degli artisti di livello che tu consideri validi? Ah beh, sì, ci sono dei vari artisti in Cina, sicuramente. Non penso che ce ne siano tanti in rapporto con il numero della popolazione, ecco, perché ovviamente è una popolazione enorme e quindi rispetto magari all'Italia la percentuale è molto, intanto la percentuale delle persone che si occupano d'arte è molto più limitata. E poi all'interno di questi, magari, a parte che al giorno d'oggi, insomma, i grandi artisti, io sono abbastanza esigente, non sono tantissimi da nessuna parte. E in Cina quelli che comunque sono riusciti, riescono appunto a fare una ricerca loro personale che non tiene presente solo anche delle richieste esterne, non sono tantissimi, ecco, per cui. Però questa è una mia valutazione, come dicevo, io sono molto esigente, quindi. In che relazione è il potere con l'arte? Beh, il potere, diciamo che mentre fino al più o meno alla fine degli anni 90 cercava di negare questi tipi di espressione in varie maniere, per cui appunto li riteneva, cioè li obbligava a essere in clandestinità, eccetera, poi a un certo punto ha cambiato totalmente direzione e ha cercato di inglobare queste persone che magari appunto facevano delle cose anche un po' particolari, diciamo un po' controtendenza, tendenza ovviamente governativa, intendo, e li ha inglobati, per cui li ha fatti diventare magari direttori di accademie o insomma gli ha dato dei posti di un certo rilievo, per cui poi insomma ha avuto un'azione molto, è stato molto furbo, ecco, si è allineato con diciamo un governo di tipo molto più consumista, per cui si ha fatto diventare quegli artisti che erano al margine, li ha inglobati, per cui sono diventati anche loro così persone di successo che ovviamente hanno lasciato perdere magari quelle ricerche un po' più così particolari che facevano prima, ecco. Monica, l'incontro a seguire dopo la proiezione e come sarà strutturato? Ah, io francamente amo molto che rispondano alle domande delle persone, anche perché questo film è lunghetto, diciamo, ecco, 1 ora e mezzo, per cui vorrei che poi si esprimessero anche coloro che vengono, poi magari potranno fare delle domande e trovo molto più stimolante questo. Rispetto a mettermi io lì a parlare, ecco. Oltre a me ci sarà il professor Giancarlo Calza, che è stato il tutore del mio dottorato di ricerca, che si occupa anche lui si è occupato molto di arte orientale. E poi c'è anche una persona che per la prima volta esce dalla Cina, che è un operatore del Moart Space, che è una persona, diciamo, di estrazione molto, molto popolare, appunto, molto umile, è stato un minatore per 20 anni della sua vita. Poi è capitato in questo spazio dove cerchiamo di fare degli eventi artistici di un certo tipo, che non è né a Pechino né a Shanghai, ma in una zona piuttosto periferica rispetto ai centri dell'arte contemporanea, e lui che appunto veniva da un background di altro tipo totalmente, perché minatore insomma delle miniere di carbone, si è appassionato, conoscendo poi i vari artisti sia cinesi che stranieri, e questa volta appunto viene in Italia perché piaceva che avesse questa possibilità e quindi ci sarà anche lui, e penso che sarà una possibilità anche di confrontarsi con lui, che è veramente è una voce insomma abbastanza insomma molto sincera, insomma molto diretta, ecco, Sì, quindi sì, sì. così ci sono diciamo che risponderemo a stimoli, a domande delle persone che verranno a che vorranno vedere, venire a vedere questo film. Monica, in chiusura hai anche uno spazio internet per seguire le tue attività? Ma l'unico spazio internet è quello che è www.moartspace.com, che è quello che riguarda appunto lo spazio che c'è in Cina. È un sito che, beh, non è curatissimo, ma comunque più o meno cerchiamo di tenerlo aggiornato. Cioè noi siamo uno spazio, insomma, che cerca di sopravvivere, insomma, soprattutto, ecco, quindi non è che siamo super professionali, non possiamo esserlo, però facciamo del nostro meglio, quindi se qualcuno vuole andare a vedere, comunque di cose da vedere ce ne sono, ecco. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con Il sogno di Mo per la regia di Francesco Dal Bosco al Cineclub de Tours il prossimo 13 maggio. Un saluto e un ringraziamento a Monica De Mattè che sarà presente alla proiezione. Monica, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille Federico, grazie a tutti. Arrivederci.